fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Continua la serata nel nostro locale Risto Radio Convento, sono le 2:40 del mattino, quindi mancano pochi minuti al termine di questa ennesima nottata, di questo ennesimo sabato dinner and dance. Ma noi teniamo ancora un po' di spazio per far parlare i nostri festeggiati, farci dire qualcosa, e abbiamo un'altra sposa nei nostri studi, una sposa che viene da Mantova, la conosciamo meglio e diamo il benvenuto a Laura. Grazie, sono qui, sono Laura, sono di Mantova e sposerò Matteo il 13 ottobre. 13 ottobre, molto bene. Allora, Matteo, e da quanto vi conoscete, Laura, se posso chiedere? Quest'anno sono 5 anni. Sono 5 anni, ok, posso permettermi di chiederti l'età? Vai. Vi sei giovanissima. Sono 27, tra due settimane sono 28. 27, quindi beh, 22-23 anni vi siete conosciuti? 23, sì. 23 anni. E come mai la scelta di sposarsi comunque così giovani in un mondo che va, diciamo, controcorrente? A dir la verità, perché lui ha un lavoro a tempo quasi indeterminato, io un lavoro quasi indeterminato, cioè no, ho un lavoro indeterminato io, quindi adesso ci si sposa solo a tempo indeterminato, dicendolo praticamente. Sì, è vero, cioè nel senso, diciamo che ribaltiamolo un attimo, chiaramente si può fare sempre, sì, però per un discorso pratico ed economico è chiaro che dal punto di vista... Essendo nata a Lumezzania, pane pratica, ci si sposa solo a... No, nel senso che anche per le banche, per i finanziamenti, per una casa, insomma, per tante sicurezze in più che vanno oltre al bellissimo ideale e sentimento di sposarsi, chiaro che ci vuole anche... Si può amare quanto vuole, ma alla fine ci vuole una sicurezza economica, è giusto essere... È giustissimo essere concreti, maturi e adulti, assolutamente sì. Quindi io ho un lavoro indeterminato, lui quasi, perché è un atleta dell'aeronautica, quasi indeterminato, perché ha un WF più 4, per chi sa chi è. Cos'è, più che altro? Mai sentito, ma mi fido. Vabbè, 4 anni in tempo determinato, poi sarà indeterminato a priori. E quindi lui me l'ha chiesto, mi sembrava maleducato dirgli di no. È giusto, perché poi alla fine ci rimane male, viene broncio. Sì, poi sai, non ci dorme la notte. Essendo che viviamo già insieme, sai, sarebbe stato un po' difficile vivere insieme, poi dirgli di no. Esatto, sono d'accordo. Gli ho detto di sì, perché hai fatto bene. È bello, alto, muscoloso. Cacchio. Non è sbagliato nulla. Fa paura, ma in realtà sono più cattiva io, perché è alto 1,93 per 100 kg, ma ha tutti i muscoli. Sì. Perché è nel nazionale di canoa kayak. Non canoa canottaggio, per chi sa la differenza. Sì, sì. E quindi va benissimo per me. Beh, direi, cara, come si dice in gergo, è un gigante buono. Hai fatto bingo. Sì, ho aspettato proprio... 23 anni, ma ho aspettato quello giusto. E cavolo, le hai proprio azzeccate tutte, complimenti. L'ho visto, l'ho mirato e ho scommesso su di lui e ho fatto bene a scommetterci. Allora, diciamo così, al di là delle bellissime cose che già hai detto, cosa ti ha colpito lui? Di base l'altezza, perché in 3 anni che ho fatto l'università a Mantova non ho mai visto un uomo più alto di me. Ma che sono alto 1,75, non è che sono alta. Esatto. 2 metri. Esatto. Però già di base 1,75 è già una donna alta. Mm-hmm. Lui è alto 1,93, quindi l'ho visto, era alto, era muscoloso, era bello. Ho scommesso con la mia coinquilina all'epoca. Ha proprio scommesso, veramente? Sì, lei mi ha detto non andrai mai a chiedergli il nome e cognome e io sono andata. Grande! Quindi sei uno dei primi casi in cui la donna ha fatto il primo passo. Sì. Perché lui stava lavorando in quel stata, momento, lì è stava stata... facendo il buttafuori. Ah, ok. Che anche questa era... usanza un po'... come dire, vecchio stile, che è l'uomo a doversi muovere, non è vero. Ma non poi è, detto. È tutta una cosa di destino, perché lui non doveva essere lì, doveva esserci qualcun altro, lui era lì eccezionalmente a sostituire. E beh, chiaro, guarda che destino, fatto, anche lì il destino, io ci credo, esiste, e a volte se leggiamo diversamente nella nostra vita capiamo bene che... Io ci credo dal giugno 2013 al fatto che le cose sono andate in un certo modo perché esattamente dovevano andare in quel modo. E facciamo il contrario, come mai tra tutto il mondo possibile, immaginabile, lui ha scelto te secondo te? Ma cosa l'ha colpito? Allora, lui... Non per vantarmi, perché prima di conoscere me non facevamo molta amicizia. Mm-hmm. Ma perché ha avuto una vita un po' particolare, nel senso che da 18 anni in poi ha avuto i raduni con la amici nazionale. Hai amici che ti aspettano, guarda che ti vogliono salutare. Grande pubblico per ha Laura. Ha avuto i raduni con la nazionale, quindi era sempre via, quindi gli amici te li tieni. Sì, ma poi via, cioè via, nel senso, via. Esatto, andava lontano per le gare. Via. Gare all'estero, tutto così, quindi gli amici te li tieni, quelli che sono esattamente amici, li vedi con poco, la maiuscola. Li vedi poco. E noi ci siamo incontrati per puro caso. Ha deciso di scegliere me, ma perché io mi sono portata avanti, l'ho praticamente sequestrato per mezz'ora durante il suo lavoro. E boh. Lei provaci, secondo te cosa l'ha colpito tanto da sposarti? Perché non è, cioè, una cosa per dire, vabbè, un'avventura di un'estate e via. No, cioè, ti ha sposato. No, no, no. Qualcosa l'avrà colpito. Prima di uscire, di uscire ufficialmente, mi ha fatto penare 5 mesi. Cioè, mi ha fatto a lui ti ha fatto penare. Fantastico. Mesi, perché mi ha conquistato dicendomi, devo fare le gare all'estero, sai? Cioè, noi donne siamo così, minchia, cosa potrà fare all'estero? Certo, certo. Le gare, preoccupate, immagino. Quando è tornato non mi ha cagato assolutamente, perché ne avevo un'altra. Poi quando è rimasto senza l'altra mi ha cagato. Vuoi dirgli di no? No. Io gli ho detto di sì, ovviamente. E anche perché stavi aspettando, certo, stavi aspettando. E dopo 5 mesi gli ho detto di sì, abbiamo iniziato a uscire. Lui non ha avuto problemi a venire da me, perché io non sono di Mantova ma sono di Brescia. Sì. Quindi non ha avuto problemi a farsi 80-100 km per venire a trovarmi. E niente. Che già vuol dire tanto. E siccome mia mamma ha sempre ragione, addirittura. E la prima volta che l'ha visto ha detto sì, lui va bene, mi piace, basta, l'ho tenuto. E anche la mamma ci ha azzeccato bene. Perché tutti i miei amici, quando diceva no, non mi piace, ma no, non mi ispira, aveva ragione. Per, esattamente, io ho detto esattamente questa parola, mi è morso la prima volta. Se la mia mamma, quando ti vede, ti dice no, mi dice no, non mi ispira, io ti mollo. Ah, ce l'avresti fatto veramente? Sì, gliel'ho detto e l'avrei fatto. Ma mia, perché ti fidi così tanto del parere della tua mamma? Sì, perché ha avuto sempre ragione. Sì? Sì, io spero di avere il suo Intuito, fiuto e intuito. Esattamente. Però, complimenti anche alla mamma, ma fa l'investigatrice privata? No, non fa niente di tutto questo, ma okay. È sempre presente nella mia vita, è brutto da dire, però cioè, io ci tengo a dire le cose a mia mamma. E ci mancherebbe. Ci prende, d'altronde ognuno ha caratteristiche diverse, lei evidentemente ha questo intuito sulle persone. Non sono una mammona, per carità, che non passi chi dice mia mammona, per carità. È chiaro. Però la mia mamma, perché ha sempre ragione. Saper leggere le persone è uno dei talenti più difficili, sì, che ci stanno. Perché prima di mio quasi marito ho avuto un altro fidanzato. Sì. Lei mi ha detto, mi sembra uno scemo, in realtà ero uno scemo davvero. Quindi ci ha visto più lungo di te. Sì. E infatti io mi sono sempre fidata del suo intuito. Dopo questa intuizione sul ex uscente, chiamiamolo così. E quindi mi sono sempre fidata. E allora hai fatto benissimo, e come abbiamo detto è andata più che bene. Sì. E noi non possiamo far altro che augurarti buona fortuna, in bocca al lupo e una vita davvero davvero felice. Grazie Crepi il lupo. Grazie per essere stata con noi. E chi è che deve crepare? Chi per lui? Cioè, ah, il lupo chi per lui. Bello, mi piace questa rivisitazione del detto. Lavoro con i matti, ricordo sempre. No, vabbè, brava. Grazie per essere stata con noi e esserti raccontata un po'. A presto e buona festa. Grazie, ciao. Buonanotte.